fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eh sì, è questo il nostro motto, per raccontarsi, per raccontare. Benvenuti su Risto Radio Convento, benvenuti nello spazio web del nostro locale, la nostra radio web, insieme a tutti i protagonisti di questa bella serata, insieme soprattutto ai festeggiati. Per raccontarsi, per raccontare, dicevamo, è un modo per condividere con loro un momento della loro festa e farci raccontare qualcosa in più. Abbiamo qui con noi, ragazzi, una... come dire, mi viene da dire stella, ma è riduttivo perché non la descrive a pieno e non descrive al massimo quello che è il suo potenziale. E come ti definiresti? Facciamo così. Ciao a tutti, io sono una school influencer. E sono... Sì, ma influencer, secondo me tu non sei solo un influencer, cioè tu sei la influencer. La numero uno. La migliore. Pensate un po' che sì. Chiara Ferragni è andata a scuola da lei. Sì, esatto. Cioè è andata a imparare come si fa a vivere da influencer da lei. Fedez era innamorato di lei all'inizio, inizialmente, poi ha detto no, mi influenza troppo e quindi vado con una che mi influenza un po' meno, e ha scelto la Ferragni, che però, caro al mio Fedez, te lo ricordo, è sempre una ruota di scorta, giusto? Sì, infatti. Perché insomma la prima scelta è sempre stata lei. Prima io e Fedez convivevamo assieme nella sua casa, poi ha voluto cambiare e andare con lei sempre in zona City Life a Milano. Esatto. Milano, essendo un'influencer. Tra l'altro questa ragazza, che si chiama Elisa, non si è ancora presentata, un po' timida comunque, però ve lo dico, ha il pollice verde perché insomma il giardino verticale è tutta roba sua. Il bosco verticale, fai benissimo a puntualizzare, giustissimo. Dicevo, il bosco verticale, insomma, è lei che tiene il verde, insomma, è... Sono anche giardiniera. È tutto. È un'influencer giardiniera. Le piacciono anche le verdure. Sì. Infatti, nella giardiniera le viene benissimo. Fa tante cose. Allora, Elisa, abbiamo capito, parlando di bosco verticale, da dove vieni, ma specificacelo tu, perché so che hai, come dire, due paesi che porti nel cuore. Sono metà di Verona. E poi... Che non si è sentito, no, in questo Verona. Non si è sentito, sono di Verona, però vivo a Milano. Via Milano per lavoro? Lavoro, amore. Facendo l'influencer. Vabbè, giusto, che tu devi essere nella. E poi il mio fidanzato, anche lui, è un manager. Ah, è un manager. Un top manager. Sì, sì. Che bello. Qui ho le mie amiche che sono appunto. Che di sono delle plebee. Sì, cioè sono trovatelle. Della provincia. Trovatelle, provincialotte. Provincialotte. Voglio loro bene. Sì, perché diciamo che tu sei un po' come nelle fiabe della Disney, cioè che non ti circondi di pari, no? No, di pari. Per restare umile ti circondi di gente, insomma, di bassissimo livello, bassissimo, no? Sì, loro poi infatti parlano poco, sono anche timide perché parlano solo dialetto veronese. Esatto, non le, cioè, sono proprio isolate, sì, non le capisce nessuno. Sì, no. Però insomma questo ti fa sempre tornare a ricordare le tue umili origini. Magari vogliono dire qualcosa anche loro, sì. Non lo so, ma hanno il dono della parola? Sì. Ah, le l'hanno dato. Anche una ragazza che è un po' timida, però può parlare. Ostreghetta! Che in milanese vuol dire mangio le ostriche. Esatto. Poi a fianco la mia compare dal bon. Sì. E anche l'altra mia compare, perché comare, ho scoperto comare. De Verona. Sì, e poi ci sono. Ma le altre... stai giocando a curling così? Sì, che sto vedendo sì, che stai. E poi ci sono le altre tre che sono timide, però se vuoi anche loro possono parlare. No, lei dice no, non se la sento. Ce n'è un'altra. Ma solo aspetta, vedete che c'è anche quello che possono usare. Eh sì, è più comodo. Sugai canal. Bello. Stiamo facendo tra l'altro un giro nei dialetti del mondo. Mengacci sarebbe fiero di noi. Allora, tra l'altro nessuna di loro si è presentata, ma hanno detto solo delle parolacce, evidentemente, che non ho capito, ma mi sembravano molto offensive. E dai, presentacele tu, dai, fai un giro di nomi. Sì. Allora, cioè loro devono presentarsi o fanno sempre. Come vuoi, decidi tu. No, allora c'è Licia che è una cardiologa, poi c'è Giulia. Ma che ha lasciato Mirko, sono ancora insieme? Sono ancora insieme. Ok, perfetto, almeno esatto. Torniamo poi anche tutti i fan del gossip. Anche lei è sposata, però anche lei ha delle storie con questo ragazzo qui. Ah sì? Perché lui è il nostro migliore amico. È un grande, sì, lui è un grande. È il numero uno. Pensa che Giulia ha così, come dire, segnato la sua vita sentimentale che ha deciso di farsi suora. Sì, sì. Cioè esatto. Non Giulia, lui. Lui, esatto. Lui ha deciso di farsi suora. Anche perché è convinto. Esatto, molto godimi. E poi c'è Giulia, appunto, poi c'è Linda che balla spesso. Linda balla come sei. Esatto, spesso come sei. Poi c'è Laura Pausini, che non c'è. Non c'è, è andata via con Marco. e poi c'è Mari e poi c'è Fede. E loro due sono cognate. Ah, sono cognate, infatti non hanno una canzone dedicata, no, per cui sono escluse dal gruppo. Però vanno d'accordo anche se sono cognate. Ebbene, perché essendo tutte e due escluse, esatto, si sono messe hanno in coppia. Hanno fatto un'alleanza di escluse, perfetto, perfetto. Allora c'è anche. Ah, ma anche lei è la mia testimone in Italia, compare. Compare. La più umile di tutte, sì. La più umile. Non parla, però è simpatica. È umile e simpatica, molto bene. C'è anche da aggiungere una cosa importante, perché anche la data del tuo matrimonio, il periodo è molto particolare e speciale, dici un po'. Mi sposo il 21 dicembre perché ho fatto tanti matrimoni estivi, ho sudato tanto, allora i miei ospiti devono partire il freddo, anzi spero che ci sia il gelo più possibile, che nevichi, proprio per ringraziarli tutti i matrimoni estivi che mi hanno fatto fare. Perfetto, tra l'altro dovete sapere che le bomboniere della nostra Elisa, me l'ha detto prima fuori onda in anteprima, saranno dei deodoranti stick, proprio perché per ricordare quei matrimoni in cui ha sudato tanto regalerà deodoranti a tutti per far vivere a tutti quell'esperienza quando e se succederà. E vuoi mandare un messaggio al tuo futuro marito, vuoi dirgli qualcosa o al tuo pubblico che ti sta guardando? Sì, allora al mio pubblico lo ringrazio di seguirmi sempre e tra l'altro vorrei farvi notare come prima ha salutato il pubblico, sì, e poi forse il marito, no, quindi c'è mio... una gerarchia molto molto importante nella mio sua vita compagno. C'è un momento di particolare tenerezza, il mio compagno, vorrei salutare lui e vorrei mandargli a lot of kisses. You are the one that I want, sure that the one I want. Hit me baby one more time. È giusto, vedi, anche poliglotta come è giusto che sia, perché ormai queste influencer sono internazionali. Non chiedo alle amiche se vogliono dire qualcosa, perché sembra che abbiano poche parole nel loro serbatoio. Hashtag I love you, hashtag Elisa che brilla, hashtag Berta Glitter, hashtag Pasquagnoli. Bene, noi ci adeguiamo, non sappiamo cosa voglia dire, ma ci adeguiamo. Sono parole in codice. Esatto, sono parole in codice, ci fidiamo di voi. E allora grazie alla nostra Elisa, alla nostra influencer, grazie a tutte loro e non mi resta altro che augurare. Ah, tra l'altro ce la sei presa bella comoda, perché mancano ancora 2 mesi al matrimonio, no? Sì. Due mesi, quasi e mezzo. Sì. Insomma, hai festeggiato con calma. Con largo anticipo. Nella media stagione, sì, hai festeggiato, sì, quando c'è un po' freddo, ma non tanto. Mid season. Perché ricordate, non ci sono più le mezze stagioni, e soprattutto vestitevi a cipolla. Per fare successo nella vita bisogna vestirsi a cipolla. Grazie mille ragazze, è stato bello. Buon ritorno a casa. Grazie. Ciao! Grazie! Ciao!